Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Sta per chiudersi un anno, il 2016, che per gran parte d'Italia ha significato terremoto, interventi per il terremoto, e qui la Caritas di Padova, come sappiamo, è stata presente ed è presente insieme alle altre diocesi del Triveneto per sostenere nel gemellaggio ormai da tempo consolidato la diocesi di Spoleto Nord. Cioè, ricordiamo che è ancora possibile continuare ad aiutare, e appunto le diocesi sono in stretto contatto proprio per questo. Quando c'è stato bisogno qui in Veneto di supporto, sono state le diocesi umbre a dare una mano, e adesso la cosa viene ricambiata ancora in questo periodo. Tutti i riferimenti sono su caritaspadova.it. Ma non dimentichiamo il terremoto in Ecuador, non dimentichiamo l'uragano di Haiti e tante altre emergenze che si sono verificate nel corso di questo 2016 che va a chiudersi. La questione dell'ospitalità dei profughi, che ha visto la Caritas spesso all'avanguardia, prendere anche posizioni magari considerate scomode, ma che alla fine si stanno rivelando più efficaci di altre. E parliamo soprattutto dell'accoglienza diffusa fatta in modo intelligente, con preparazione, con sostegno e coinvolgimento delle comunità, magari anche in mezzo all'ostilità, certo, ma questo diciamo che fa parte del piano di azione del Vangelo stesso. Si sta concludendo l'Avvento, appunto, con tutte le iniziative di cui abbiamo già detto nelle scorse settimane. C'è ancora una settimana di tempo fino a martedì 27 per le iscrizioni al Capodanno Caritas 2017. È il quinto anno che la Caritas, insieme alla Pastorale dei Giovani, propone questa giornata intera di festa, quindi non solo la notte è solo la conclusione, ma si parte alle 9 del mattino con gli incontri, la conoscenza, la formazione, e poi questi blitz party divisi per gruppi. Le domande, appunto, che spesso vengono fatte riguardano il prezzo. Per questa iniziativa non c'è nulla da pagare, basta coprire i costi della cena con un'offerta libera. L'ora di termine, sicuramente dopo l'una e mezza, dopo aver ben festeggiato l'arrivo del 2017, e magari per l'alba, ecco, un po' prima dell'alba. La sera è prevista un'animazione frizzante e coinvolgente che lascia a ciascuno la libertà di godersela come spettatore, o anche di agirla in modo che sarà un po' sorprendente. Musica, risate, effetti speciali. Chi si iscrive, appunto, avrà qualche dettaglio in più, soprattutto, e la proposta rivolta ai giovani dai 18 ai 35 anni, soprattutto per la parte centrale della giornata, appunto, questi blitz party, attività di gioco, balli, tombolate, incontri in diverse realtà del territorio. Una specie di Capodanno diffuso, magari anticipato di qualche ora, ma per dare modo anche a chi magari nel corso della notte, a mezzanotte, non avrà la possibilità o la voglia di essere presente, di festeggiare. La base di partenza, di arrivo, di ritorno è la palestra del seminario minore di Rubano in via Rossi. Fino al 27 dicembre, dunque, fino a martedì prossimo, le iscrizioni aperte dai 18 ai 35 anni. Ulteriori dettagli si trovano, come abbiamo già detto nelle scorse settimane, sul sito caritaspadova.it. Già in altri spazi abbiamo citato poi il Fondo Straordinario di Solidarietà per il Lavoro. Si sta concludendo il quarto biennio di questa iniziativa promossa dalla Fondazione Cariparo, dalla provincia di Padova, dalla provincia di Rovigo, dalla diocesi di Padova, da quella di Adra Rovigo, quella di Chioggia e la Camera di Commercio di Padova. Un progetto che ripartirà, appunto, con ulteriori risorse anche per il 2017-2018. Lo scopo è quello di favorire la riqualificazione professionale di persone disoccupate e inoccupate attraverso interventi formativi o inserimenti lavorativi, attraverso stage, tirocini, voucher, con particolare attenzione al tutoraggio per le fasce più deboli. E anche qui ci sono ulteriori dettagli proprio su caritaspadova.it. www.comunitacheinnova.it. Ricordiamo poi il progetto Comunità che Innovano, proposta di 2 anni di durata per una 50ina di giovani tra i 18 e i 25 anni. Qui lo scopo è fornire gli strumenti per diventare attori di innovazione sociale, dalla cittadinanza attiva, dello sviluppo locale, attraverso 4 visite di studio in Italia, 3 in paesi europei, momenti di formazione sui temi dell'economia civile e l'analisi dei bisogni dei territori. Sono previsti anche degli stage, laboratori di arte sociale, l'elaborazione di proposte e azioni di mentoring, così si dice, per lo sviluppo di tali azioni. In questo caso il sito di riferimento è comunitacheinnovano.it. Questo è una piccola panoramica appunto di quello che è stato il 2016 con la Caritas di Padova, appuntamento che rimarrà anche per le prossime settimane e che poi ripartirà appunto in maniera più organica con il nuovo anno 2017. Avete ascoltato? Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.